mondo stanco di sentivi del vocio della città, dritto dritto te ne andavi a dormir nel cinema. Bastavano il telefono, la radio, il grammofono. Bastavano il telefono, la radio, il grammofono.